hanno una radio fortissima, disastrosa. Se pensate, tutti gli ADMC che ho io, dei baracchini compresi, non riescono a ricevere. È una cosa veramente problematica. Mi prendi, Giulia? Adesso il presidente sta usando. No, sto usando un microapparecchio che l'ho preso per la macchina. Mi rimetto sempre il nome PNI Escort 2005, se non ricordo male. Comunque PNI è due pacchetti di sigarette. Ma per la 27 questo qua? Sì, certo, un nuovo gatto anche. Guarda che te l'ho mandato già, ti avevo mandato il link. È un omologato ultrasottile per auto, è anche poco rumoroso, mi ha detto Gianfranco. Vai, sto uscendo. Sei rilanciato a Gianni. Ehi, sto andando a controllare il link, Marco. Se no te lo rimando, Ok. Beh, lo so, ci sono a volte, ci sono certe radio proprio assordanti che vanno bene, magari a chi piace, poi a chi non piace chiaramente, che preferisce una radio tranquilla, un volume soprattutto, ma io quando arrivano radio fortissime ci gioco col volume, per cui mi va sempre bene, non ho problemi, per quello già non mi lamento. Interessante che siano radio chiare, che riescano ad avere una qualità discreta, poi che siano forti o siano meno forti, se io gioco col volume e va bene così, non ho problemi. Bene, meglio fra. Ma il fatto non è problema, Giulio, che siano forti o meno, è che imballano gli LC, no? Non rubare Alessio, la DC, il controllo automatico del guadagno degli apparati. E quindi escono proprio incomprensibili, non riesco a capire quello che dico, ma anche nella norma, anche quelle bassissime, tra l'altro questo apparecchio ha una sensibilità notevole, devo dire, che sia da 4 soldi, ma proprio da esattamente da 49 euro, però quelle distanze a maggior ragione dovrebbe sentire quelli con segnali 9.10, 9.20, mentre invece molti li taglia a 7 in una maniera micidiale, ma a 7 tutti gli altri, anche quelli grossi. Poi sull'ultimo che è arrivato il mese scorso, neanche un paio di settimane fa, che c'è l'analisi del segnale e si capisce il perché vanno fuori banda, proprio fuori canale. Hanno tutti apparecchi toccati. Comunque vabbè, riprendi Marco, sta preparando la colazione, immagino. Scusate, sono un po' distratto e rilancio per Giulio, dai un attimino. Sì, riprendo io allora. Sì, ma è così, ci sono le persone che magari esagerano anche con la LC e anche col power, per cui magari fanno lavorare troppo il modulatore, tante volte può anche partire il modulatore, più di uno ne abbiamo sentito che è partito il modulatore, però ognuno fa quello che vuole, la radio è la sua. Tu mi dirai, ma le orecchie sono le mie, e vabbè, io faccio così, mi difendo col volume, quando so che deve, ormai conosco tutte le stazioni, se tu mi rilanci per dire una persona, so che tipo di modulazione mi arriva, perché ormai ce l'ho a memoria, e allora già lavoro col volume, non c'è problema, anche perché mi piace operare anche sulla stazione radio, non solamente stare lì a parlare e ascoltare. Tu mi dirai, non è un grande lavoro che devi fare per il volume, non è che stai operando chissà cosa, però mi piace operare anche in trasmissione, perché no? Avanti Gianni lo riprende, Marco lo stesso si è sentato un attimo, riprende Gianfra. Magari fosse questione di volume, il fatto che non è questione di volume, è che proprio non si capiscono, vengono mezzo affettate, tutte così, sembrava quasi un bandato a pagare. Eppure, diciamo, per lo meno con quella grande ha tolto anche le broccate, che come sai sono una testa di banda enorme e si sentono abbastanza chiare, insomma non ci sono problemi, tutto libero. Vabbè, come si dice, contenti loro, contenti tutti, solo che poi la gente dice che stanno scendendo bene, mentre non è vero. E, vabbè, cosa ti volevo dire, Giulio, un po' questa la miseria, cosa dici tu, questo rimbambimento, che ti dimentichi le cose, è normale a questa età oppure man mano che vado peggiora? Sta rincoglionendo. Io penso che sia così, Io penso che sia proprio così, Gianfra, come ha detto Gianni. E cosa ci vuoi fare? Ripeto, ognuno sa di sé e si comporta a modo suo. Che problemi abbiamo? Oh, non me ne metto problemi, alla mia età poi, e che me lo fa fare? Mi sono bastati problemi di 50 anni di lavoro autonomo, figurati se me ne metto altri problemi, ma nemmeno per sogno, non ci penso proprio, guarda, nella maniera più assoluta. No, quello che a me mi fa un po' sorridere il discorso che uno magari si prende un baracchino e poi se lo fa preparare spendendo il doppio di quello che ha pagato per comprarlo, il baracchino, ma ognuno con i suoi soldi è padronissimo di fare quello che vuole, faccialo pure. Interessante che poi uno quando entra in frequenza si comporti in maniera decente, non con una radio tutta quanta messa male. Ci sono le persone che ce l'hanno, le modifiche nel baracchino, però ci sono persone che lo sanno anche utilizzare, mentre altri non lo sanno usare, o perlomeno credono di fare chissà cosa facendo una trasmissione con un volume tutto ballato. Ma lasciamoli fare. Vediamo se è rientrato Marco. Marco? Sì, sono qua, dai. No, ma sai, la cosa più seccante è che magari in un canale trovi uno che esce con un omologato di serie e quindi devi alzarlo pure il volume per sentirlo. E magari una stazione fortissima di modulazione devi stare, poi la notte non te ne dico, vabbè la notte non sto più entrando, ma devi stare alza bassa. Sai cosa dovrebbero inventare, Gianfranco? Una specie di che abbia effetto sulla ricezione, una sorta di normalizzatore audio, non so se si può dire così, come si faceva per gli MP3, che ti rende istantaneamente tutte le modulazioni allo stesso livello, cioè quello basso di volume te lo esalta, quello troppo alto di emissione te lo... cioè sentire il volume tutto uguale su tutte le stazioni ricevute, sarebbe un'invenzione geniale. Ma quello dovrebbe essere il compito della DC, capisco? Automatiche che è già in controllo nella parte di ricezione, però evidentemente supera anche le sue possibilità di controllo. Tutto lì. Non è un particolare problema. Comunque Gianni, l'hai visto? Sì, lo sto usando adesso, è questo che senti con l'apparecchietto che ti ha mandato il link Marco. Questo veramente è formidabile, che è il clone di quelli che vengono a Midland, tra l'altro. A me quello che interessa è che ci stia dentro il cassetto della macchina, capito? Sto cercando uno che vada bene, questo mi sembra che scappa abbastanza bene, anche come radio mi piace. No, per quanto dicevi poco fa, stavo scherzando e aspetto di ricoglionito, però anche a me succede, già ho un po' più fare, a volte vado a prendere una cosa e mi dimentico di quello che devo prendere. Poi se mi parli di 40 anni riesco a ricordarmi tutto. Però nel momento, per dire, sto andando a prendere una cosa, vado, mi fermo davanti all'armadio, per dire, non mi ricordo quello che devo prendere. Allora siamo in buona compagnia, dai, non mi preoccupo. L'importante è poterlo sempre raccontare, vero Giulio? Sì, ma certo, no, ma quello succede un po' a tutti. Anch'io, ad esempio, lo so che so io, tanto per fare un esempio, potrei farti questo esempio, sono per dire qua, in questo piano della casa, e magari ho il telefonino qua, scendo giù, e quando sono arrivato giù, non mi ricordo che dovevo prendere il telefonino che avevo lasciato qua, allora devo risalire, o perlomeno mi sposto un attimo per dire, devo andare tanto per fare il bagno, prendo l'appoggio sul mobile del bagno, lì dove c'è il lavandino, e magari riesco senza riprenderlo. Capita a chiunque, queste sono cose, ma sono, diciamo, questi sono atteggiamenti non di difetto, ma sono praticamente distrazioni così, abbastanza diciamo normali, perché uno non è che sta pensando se è una cosa in mano come il telefonino ad esempio, lo appoggi e poi ti dimentichi che prendi, se sei a casa non costa niente, ritorni indietro e lo prendi. Il problema è se vai fuori, se vai ad esempio, non so, che sono io a bar e ti metti a scrivere su un tavolino o prendere un caffè e poi magari te lo dimentichi lì, allora il problema incomincia a essere grande, perché prendi il telefonino. Tutto lì, Gianni? Sì, appunto, e anche a me succede questa sera al telefono, a volte devo andare anche al telefono di casa e chiamarlo perché non ricordo dove l'ho messo, e lo faccio squillare, sempre che non ci sia la volume avanzato del tutto, perché a volte lo abbasso di notte perché mi arrivano dei messaggi, se no mi svegliano, capito? Allora abbasso il tutto e lo lascio tutto il volume abbassato. Sì, oppure magari sei in macchina, te lo togli dalla tasca per non sedirti sopra il telefonino, perché io di solito lo tengo nella tasca di dietro del pantalone, e magari lo tolgo prima di sedermi e lo metto nella tasca dello sportello della macchina, poi magari arrivo a destinazione, scendo e mi dimentico di prenderlo, per dire, ecco, queste cose succedono, ma è una cosa abbastanza normale, per cui non sei solamente solo, sei veramente in compagnia mia, di tua e anche di Gianni, e forse anche di Marco. Marco, ci sei? Sì, sì, sì, sto ascoltando, dai, non trovando il collegamento sullo storico della chat, gliel'ho rimandato di questo apparecchietto omologato, dai. Ecco Gianfra, ti volevo dire, per esempio, con questo qua, lasciando tutto predefinito con toni a zero in ricezione, sei effettivamente un po' troppo carico di bassi. Col 3009 riceve più acuto e un po' migliore. Se si potesse intervenire sulla tonalità di trasmissione sarebbe ottimale. Non lo so, forse col microfono che tu magari con un'unità giga c'è il controllo dei toni, su questo no, perché attualmente io ho collegato solo da tavolo, come ho detto, però non si può mettere le mani, è troppo piccolo. Gianni, comunque guarda, dubito che neanche nelle macchine moderne ci sia un posto dove questo affare non ci sia, perché è molto molto fino. Tutti guardi che la manopola del volume è praticamente è grande, quasi quanto tutto lo spessore dell'apparecchio, quindi si può immaginare di cosa stiamo parlando. Per cui ti dico anche lo spessore, però devo cercare il metro. Riprendi Gianni. L'unica cosa che non mi piace, l'ho visto, sai che cos'è? Lo spinotto del mic, perché se tu vuoi mettere un mic amplificato lì è un casino a mettere lo spinotto, dico gli spinotti particolari. 250 di cosa di spessore per 17 neanche, di 18, anzi 16 e mezzo di larghezza. La profondità poi è pochissima, sarà 15 centimetri, quindi è molto molto piccolo. C'è ragione per lo spinotto, perché devi mettere, infatti stranamente da loro li ho trovati, costano credo 50 centesimi, neanche 30 centesimi, devi usare quelli plug, si chiamano plug 12, RJ 12, che sono a free pin, ovviamente li devi crimpare, se non c'è una crimpatrice li devi affrontare con cacciavi per attaglio a buttare dentro i piedini. Però funziona. Riprendi Giulio. Ecco, 110. Profeta, buonasera. Ma tu Giulio ti chiami? Ciao Gianni. Bene, bene arrivato. Avanti, riprendi, dai. Spiri Gonzalez è sempre in azione, come hai potuto notare. Buonasera, ho acceso proprio in questo istante, quindi non ho idea di chi ci sia, mi sono buttato dentro così al volo. Comunque buonasera a tutti, a chi ci sia in ruota, e niente, fate girare, dai. Guarda, stavamo parlando anche di te poco fa, perché stavamo facendo, io perlomeno ho sollevato il discorso, ho un confronto fra te e l'amico che ti ritrovi vicino, come differenza di segnale. Adesso ho guardato attentamente il segnale, Gianni, 9 più 10 addirittura, ecco, da Santiago 7 a 9 più 10, a 9 più 10 fai un po' tu la proporzione, e come si fa? Ma che tipo di antenna ha messo? Un bastone di scopa probabilmente, quello che ha messo Antonio. Gianni ha sempre la stessa antenna, vero Gianni? Affermativo, affermativo, non ho più toccato niente, te l'ho detto giù, ho messo la luce, ho cambiato la lampadina dello smitter che era fulminata, e quindi niente, per il resto è tutto esattamente come prima. Ed è una bomba, sì, il radio e di segnale è bellissimo, considerando soprattutto l'antenna che hai, per cui, no, perché stavamo, siccome stamattina è entrato Antonio e io lo sentivo appena, Santiago 7 dice che ha cambiato l'antenna, ha messo un'antenna simile alla tua, dai, ma l'ha fatto simile, non può essere, perché c'è una differenza enorme di segnale fra Gianni e te, gli ho detto, per cui boh, non so cosa dire, vabbè, comunque lui ha piantato quella, è buon per lui, quella bugetica. Avanti Gianfranco. Sì, vediamo. No, c'è un microfono di tutti quattro, lo vantaggio che a volte il secondo non devo premere. Ciao Gianni, buona sera, ben entrato. E niente, sono anche distratto perché sto facendo due cose contemporaneamente, che ho una funzione, l'altro apparecchio che è in digitale. E sto guardando un po' cosa sta arrivando. Ma sono abbastanza, tra tanti russi, non ti scatto perché sono arrivato, ho ricevuto anche un americano, che ho parlato del vecchio vecchio come il cucco, veramente, perché si è preso la vicenda quando sono nato io, a 17 anni, quindi figura, cioè a 17 anni ci rimane. Riprendi i giorni doppio d'onda. Sai che ti ho scritto in un messaggio? Ciao Luprofè, beh, come va? Ciao, signor Condor, buonasera. Stamattina, come ho detto a Giulio, ho smontato, anche se l'operazione è stata un po' delicata, però ho smontato il frontalino e ho cambiato la lampadina dello smitter e niente, quindi adesso funziona perfettamente. È stata un'occasione buona per dargli una spolverata, visto che non, praticamente non è che lo stessi usando molto in questo periodo. E niente, questo è quanto. Ho acceso e sono entrato, come si dice, a gamba tesa, come si dice dalle nostre parti, dai. E niente, ti rilancio il mic, vai. Eia già, dai, ben sentito dopo tanto. Però Giulio, quello che volevo dire appunto, che rispetto al segnale di Gianni il Profeta, cioè c'è qualcosa che non va, o l'ha montata bassa, o l'ha montata molto aderente a un muro, non so se l'abbia messa proprio sul tetto oppure appena più bassa, c'è troppa differenza di segnale, non è normale, ho qualche spinotto che non fa ben contatto, boh, non lo so. Quando entrerà, è che bombolo entra tardi, entra verso le 8, 8 e mezza, 9, capito? Quando chiudiamo tutti praticamente. Infatti ogni volta gli dico, tardi si è arrivato, c'era buono fino a poco fa, adesso hanno chiuso tutti. Riprendi il doppio room, per risponderti Gianni, teoricamente 4 watt, ma se lo misuri scopri che 3, 3 e mezzo ne potrebbe dare. capito, da omologato. Volendo, dentro a due ponticelli, da togliere con le pinzette, li sposti, magicamente i watt raddoppiano. Però scalda già a bestia con 4 watt, ti avverto. Diventa uno scaldino, cioè lo è già di serie, con 8 watt non ne parliamo. Vai Gianni, tu più rupo. Nada. Gianni, riflessi, riflessi. Sì, dai, arriva la gente, dai, vi devo lasciare, vi saluto cordialmente, c'è gente a casa, dai. Stata qui alla porta. Ciao. Ciao Gianni, allora ci sentiamo alle prossime, dai. Spero che tu non ti sia offeso perché ti ho detto che tu non ti chiamavi Giulio. tutto lì. Ma no, era solo una battuta, niente di più. Vai, lo breve. Eia. Sì, dalla finestra di casa vedo l'antenna dell'amico, vedo praticamente gli ultimi due o tre elementi, per cui forse per uscire meglio magari la deve tirare un po' su, perché poi sai lì ci sono palazzine nel centro storico e quindi forse non esce come dovrebbe perché non è messa abbastanza in alto. Ti ripeto, io ho l'antenna qua a portata visiva, proprio la vedo, però è chiaramente in mezzo alle vecchie palazzine, quindi probabile che praticamente non esca come dovrebbe, proprio perché non è abbastanza alta, dai. Ok, già, probabilmente sarà per quello, evidentemente è così. Va bene, comunque, se lui ha voluto mettere quella, buon per lui, non ho cosa dire. A me non è che mi interessa che lui mi arrivi con un segnale forte, no? Quando lo sento mi va bene. Il problema casomai ci può essere quando c'è un po' di QRM oppure una giornata di pioggia, che allora il QRM sale, e allora ecco che a questo punto, anche perché non è che ha una radio abbastanza forte, sicuramente potrebbe dare fastidio. Vabbè, dai, non fa niente, diciamo che provvederà a fare il meglio, dai. Avanti Giafra. Sì, devo fare un po' di pubblicità. A poco mi interessa un ricevitore grosso, esattamente un ICR71E, che lo sto dando perché è troppo grande per sostituzione apparati nell'ambito di un totale rinnovamento della stazione. Se interessa qualcuno, è qua, perfettamente funzionante naturalmente. Se sento qualcuno interessato, te lo faccio sapere, o lo indirizzo da te. Bene, bene. Avanti Marco. Eia, sto guardando le foto del ricevitore. 781, giusto? È un HF, no? Bello. Anche il display... Vabbè, questa è bassa risoluzione, l'immagine, adesso la metto in HD, me lo guardo meglio. Questa è una bella bestia. Quanti milioni di euro vuoi per una cosa del genere? No, 71, 71E, R71E, non 718. Un break per un controllo. Mica è arrivato un bombo, avanti Antonio. Santiago sì, adesso dai. Santiago sì, avanti, la radio non è molto forte, perlomeno qui da me. Avanti, bombolo. Passa giù con su quest'antenna che è 3 metri d'altezza. Cioè, la pongo più in alto. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Già però da te come sto arrivando? 7-9, la radio non va ascoltata, quindi cercherò di tratto, però il segnale è 9, dovrebbe essere, sì, se è in presenza, sempre questo discorso, che questi a LED lasciano un po' che trovano. Cappa, dai, io ho una ricezione favolosa adesso. Dovrei metterlo un po' più in alto, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vabbè, i prossimi giorni la metto più in alto. Un pochettino a vedere, cioè adesso l'antenna non è più un roccio di cobro, no, adesso l'antenna è alta. Ok, dai, continuate che io vado a mangiare. E le stazionarie le controllasti? 1 e 3. Vabbè, 1 e 3. Sì, non è che non è a problemi, insomma, l'antenna. Sotto 1,5 è il grasso che cola, dai. Va bene. Rilancio per il profeta, dai. Gianni, riprendi. Danilo, prefetta o profeta, cosa sei? Scusatemi, 30 secondi, eh. Ammazza chi ce ne varia. Adesso ti scioglie lo smitter, mi ha 10 mi sta arrivando lui. E tu adesso che ho guardato attentamente, mi stai arrivando 5 e mezzo. Santiago, 5 e mezzo. Dalla stessa strada. E infatti è molto strano. Molto, molto. Che vado a mangiare, dai. Eccomi, sono tornato, ditemi. Cazzo, mi sento chiudendo il dutto, lo profe. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Io dalla finestra della mia camera vedo la tua antenna proprio a portata ottica, è molto vicina. Cazzo, mi ha inciudato lo smitter, mi ha inciudato, sei il più forte di tutti, sei a fondo scala qua. Allora già usando ciò così. Affermativo, affermativo, sì, la vedo proprio dalla finestra, ho immaginato, ho fatto due calcoli, dai, e niente. Comunque qua mi arrivi, secondo il mio strumento, su più del più 30, dai. Vabbè, siamo cazzo a 150 metri, 200 metri di linea d'aria, dai, se ci sono pure. No, che boomerang, boomerang. Ok, dai, io vado a mangiare, non so la tua posizione, ma dai, io vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Va bene, ok, dai. Rilancio la palla a chi ce l'ha prima, Giulio, avanti. Ok, ciao Antonio, ci sentiamo. Oh Gianfranco, non so se tu hai notato il segnale sia di Antonio che quello di Gianni Lugrofetta. Se puoi darmi i ragguagli di uno e dell'altro. Vai Gianfranco. Rispetto, ero distratto perché sto guardando anche lo schermo del PC. Vengono avanti, sicuramente glielo do. Vabbè, quello di Gianni solamente, Gianni lo profeta, perché l'Antonio è andato via. Gianni lo profeta è andato via. L'altro mi sembra che hai detto poc'anzi Santiago 9, l'altro Antonio. Mentre invece lo profeta, adesso vediamo, dai. Eccomi, sono qua, stavo solo pulendo la scrivania. S9. Fatto sembra che questo smitter di tutti da S9. Solo a quelli veramente sotti da 9, poi sale direttamente a 9.30 e quindi da 9 va a 9.30, così l'hanno fatto. Ho capito, ma cos'è? A LED ce l'hai perché lo smitter tuo, oppure analogico? No, è un apparecchio totalmente piccolo che un analogico neanche lo puoi mettere, perché è troppo piccolo. E a LED analogico va di quelli a cristalli liquidi, dai. Sì, ho capito, sì. Ho capito. E vabbè, allora, non è molto affidabile. A me non mi piacciono quelli a cristalli liquidi o a LED, come lo vuoi chiamare. Non, io preferisco lo smitter analogico. Va bene, comunque, Gianni, continuo a dirti, 9 più 10 per te, 5 e mezzo per Antonio, e non riesco a capire come mai. Addirittura è il doppio del segnale mi stai arrivando tu rispetto a lui, anche se è lì dal centro storico, ma anche tu fai parte del centro storico, per cui non vedo quale possa essere la differenza, visto e considerato che le due antenne sono a 150 metri l'una all'altra. Va bene, dai, comunque, può succedere. Allora, a questo punto sono le 8, meno 3 minuti e io vi saluto, dai. Tanto io adesso vado a cenare, per cui vi ringrazio per la chiacchierata. Io sono tutta la sera qui, attaccato al baracchino, almeno 3 ore, per cui diciamo che mi sono divertito, dai. Ciao Gianfranco, grazie per la chiacchierata, ciao Antonio se stai ascoltando, ciao Gianni e ciao Marco, saluto a tutti, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Rubrefe. Eia, bene, dai, ciao Giulio, ben sentito da parte mia dopo un po' di tempo che ero... Ho fatto una pausa e niente. Dai, salutoni, buona carica e a presto. Dai, avanti Condor, se ci sei. Io già. Ti volevo chiedere, situazione lavorativa, qualcosa avevi fatto nel frattempo? No, negativo. Negativo. Tutto fermo all'orizzonte. E niente, dai. Facciamo girare Gianfranco così, fa salutoni a Giulio, dai, e poi ne parliamo. Sì, ciao Giulio, buona serata, buon pranzo. Buon pranzo, buona cena. Riprendi Marco, vedi un po' se Gianni è più di me. Doppio Roma va gente in casa, credo che, ma almeno per oggi non rientra. Ehi, ciao Giulio, dai, buona serata, buon tutto, buona cena e ci sentiamo. Alla prossima. Allora Gianfra, notavo che questo apparecchio era straordinariamente rumoroso. Avevo questo QRM fisso a 6, 5, 6 e non capivo il perché. Allora, ho letto qualcosa, ho preso uno spunto da internet, qualcuno si è accorto di questa cosa. L'RF gain e assalti qua, no? Attacche da 1 a 10, no? A intervalli, a scatti predefiniti, diciamo. Che tu metta l'RF gain a 10 o a 5, i segnali che ricevi, anche bassi, rimangono uguali. Ci siamo? Se lo metti a 4 inizia a attenuare i segnali veri e propri modulati che ti arrivano. Quindi mettendolo a 5 è il massimo segnale ricevibile di chi modula. Però, mentre lasciando appunto l'RF gain a 5, il QRM è veramente basso nell'ordine di 1-2, alzando l'RF gain fino a 10 aumenta solo il QRM. Aumenta solo il QRM, cioè i segnali massimi modulati ce li hai già con l'RF gain a 5, e alzando l'RF gain a manetta aumenta solo il QRM e aumenta parecchio. E stessa cosa alla Linco, ti ricordi la Linco di cui ti avevo parlato? Stessa identica cosa. Ho detto, ma come mai sto apparecchio lì, arriva questo rumoraccio a Santiago 7? È come se fosse un amplificatore che però aumenta solo il QRM, il fruscio di fondo, capito? Quindi io l'ho messo a 5, i segnali sono sempre quelli vostri, limitatamente all'indicatore LED, però adesso il soffio di fondo è Santiago 1, seppure ci arriva. Vai Gianfra. Sì, adesso che... apro una parentesi, adesso che ho appeso l'apparato, per rispondere a quello che ho detto prima, ho notato che l'apparato non sta affatto scaldando, forse perché le temperature sono anche scese, ed è appeso, diciamo, con la stessa testa, eccetera, eccetera. Prima e forse evidentemente non avvasto. Per quanto riguarda l'RF gain, trattare quello che mi sembra certo, sono circuiti abbastanza elementari fatti in maniera super economica, capite? Quindi è normale vedere tutte queste discrepanze, che del tipo fuori frequenza, l'RF gain che funziona e non funziona, compagnia cantante. Quindi bisogna un po' rassegnarsi, capito, a queste cose, sono apparecchi che in fondo vanno sempre in macchina, quindi l'RF gain in macchina non credo che sia molto frequente usarlo, ecco, per quello che li fanno anche, come si può dire, a membro di seguito. Voglio fare una prova, sono rientrato, voglio fare una prova attaccata, a vedere. Com'è? Anto, qua sei già 9.30, questa è a LED, qua 9.30 già incollato da liscio, non fa testo, Gianni è attaccato a te, Gianfranco ciao, il 9 è 9 più 30, sicuramente sarei più 30. Ci vuole uno smitter molto accurato, è un segnale abbastanza distante, c'è una stazione distante, Anto. Qua sei incollato già, quindi non cambia, da Gianni non cambia, Gianfranco da te. Da me non cambia nemmeno, sempre 9 era e 9 è rimasto. No, adesso sto pompando un po'. Icca, cacchio, ma da, non aumenta nemmeno dal 9, caspita. No, però sento la radio che peggiora, mi è sembrata più cupa, più rispetto a prima, più distorta. Ma è un'altra radio, era, adesso è un'altra ancora. Ci vuole gente distante, l'amico del Porto Torres non ha ripreso in tu. Se avessi continuato a modulare avresti fatto le prove ottimali in distanza, ma già capiterà l'occasione, dai. Scappa, si intende un coso che comprende. Uia, solta che tocca. E quindi Gianfranco non sto scaldando nemmeno, ma sei sempre 4 watt, no? Non scalda, che ne so, magari quelli facevano passaggi falconiani, che ha fatto la recensione e allora li scaldava. Riprendi il profeta, dai. No vabbè, Gianni, tanto l'altro Gianni ha chiuso. Gianni, riprendi. Via. Per Antonio, radio Satura da questa parte, anche se ripeto siamo a un tiro di schioppo. Adesso hai, rispetto al primo passaggio di poco fa, la radio ha peggiorato comunque, anche se poi non so se c'è un radio o è attaccato qualche accrucchio. Giusto, questo è il mio report da questa postazione. Già lo credo, ya, poi da invece è meglio. Adesso questo passaggio sembrava un po' più pulita, dai. Sai che cambio il radio. Andave, dai, riprendo il mic io. Per Gianfranco, no, sento un timbro di voce che non è il tuo. Non so se stai usando un altro apparato, magari stai smanettando con qualcos'altro. No, c'è un apparecchietto, un baracchino, capito? Di quelli proprio piccoli, Marco, lo sai, sto attaccato un microfono da tavolo per mia comodità, perché a volte, come adesso, sto anche facendo, sono anche da altre parti, quindi sto facendo due cose in una, però il microfono da tavolo è serio, ecco. Solo che l'apparecchio, come stavamo dicendo poco fa con Marco, non è modificabile a causa delle dimensioni che sono veramente all'interno, sono piccolissime, tutti quanti con trimmer è grande, poco più grande è molto più piccolo del tappo di una penna bici, il tappo intendo quello superiore, quello che è incastrato dentro la penna, quindi immagina. Gappa, no vabbè, a memoria d'uomo mi ricordo la timbrica della radio che era un attimino diversa, adesso mi risulta un po' più, non è definita, la trovo un po' cupa, sicuramente per via dell'apparecchio, comunque, già riesco a capirti, dai, e infatti un'espressione molto terra a terra è proprio bu. Comunque già ho notato questa differenza rispetto al solito. Ah, Gianfra, per la cronaca. Già mi sembra di ricordare che quell'apparecchio lì, che ne so, rispetto al 3009 aveva una timbrica di ricezione molto più bassa di toni, anche più di questo, anche più di questo che sto usando adesso che è un President. Per cui nel 3009 riceve più acuto e passabile ancora. Buonina, dai. Con questo un po' troppo carica di bassi, da te dovrebbe essere ancora più cupo. Infatti ha detto che è un po' bu. Te l'ho detto. 10 apparecchi, 10 controlli diversi. Ogni apparato riceve in modo diverso. Riprendi Gianfranco. Sì, così. Purtroppo non si può fare niente. Non sono... Poi se fai vedere, molti sono fuori frequenza. Ma lo sai, di quanti ne ho visti di barattini anche nuovi, ma anche apparecchi radioamatoriali, molti prima che passano in funzione questi sistemi che erano trattati erano, si andavano proprio fuori frequenza. Quindi ci sono tante cose da considerare. Purtroppo quando sono proprio di grosso consumo, quando mi attrae niente, è importante venderli, è così, c'è poco da fare. Quindi su questo, ripeto, l'unica sarebbe meglio, bastavo che c'è Marco che c'ha la regolazione dei tuni. Su questo è un microfono che c'ha tanti tasti, però non sono abituati a quello scopo. Tutto lì. L'importante però, ripeto, non è tanto come esce la tonalità, ma come il livello di comprensibilità che la cosa è essenziale. Beh, entro io, dai. No, vabbè, Gianfra, niente, è solo, come si dice, una constatazione di fatto. Ho notato la differenza a livello audio proprio della timbrica e proprio a livello di ascolto. Mentre prima magari non so che radio usavi, era più definita, questa risulta, come si dice, a poca risoluzione, dai, rispetto alla radio che usavi di solito. Questo è giusto una constatazione, senza entrare nel merito di... cioè, inizia e finisce qua. Non, è giusto, volevo farti sapere praticamente il mio parere, dai, poi no problem. Allora, Gianfra, fai un passaggio adesso. Ho messo il tono di ricezione di questo apparato tutto a manetta. Prima era 0, cioè neutro, l'ho messo a 5, vediamo se ha migliorato qua. Allora, vedi un po' cosa succede. Vediamo se metto il tuo, credo che fosse quello lì piccolino, quello che è in dotazione. Penso che sia molto... molto peggio come risultato. Almeno non questo buttarsi lontano, e quindi è un pochettino più tranquillo, ecco, tutto lì. Meglio, ma c'è una differenza notevole. Sì, posso portare il tono fino a più 5 o fino a meno 5, l'ho messo tutto acuto e ha migliorato qua. Vedi, anche una cosetta che gli altri apparecchi non hanno, la possibilità di regolare il tono di ricezione, e poi c'è anche l'high cut per tagliare i toni alti, no? Quando vai in banda laterale, no? Che senti magari un po' troppo soffio, un po' troppo friggitrice, metti l'high cut e ti taglia i toni alti, capito? Va bene, riprendi, guarda che è rientrato a bombolo. Antonio? Scappa, eccomi qua. Ehi, adesso sono con l'altra radio, già dovrebbe andar bene, dai. Perché ho voluto fare una prova attaccato a vedere come rispondeva. Però troppo vicini. Cioè, non fa testo con me, con Gianni tantomeno, siete a tiro di sputo. Se sputate dal terrazzo vi sputate negli occhi. Vai Gianni. Che sbuca dai tetti, dai. No, adesso va bene, Antonio l'ascolto meglio. E niente, dai, per ritornare al discorso di Gianfranco, ti ho detto, era giusto una constatazione personale, visto che ti ascoltavo in maniera diversa rispetto a prima, poi ti ripeto, inizia e finisce lì il discorso. Con tutte le variabili del caso. Comunque riesco ad ascoltarti, era giusto farti notare da parte mia questa piccola differenza. Niente di che, adesso non mi ricordo, Gianfra, il tuo QTH grosso modo dove si trova, giusto perché non sono un po' che non entri in radio, quindi la memoria sta iniziando a perdere i colpi, dai. Tutti messi male, è tratto comunale. Affermativo, ok, perfetto. Bene, dai, non mi ricordavo, sono un po' da tanto, dai. Comunque adesso Antonio Bombolo, qua la radio è ascoltabile rispetto a prima era molto, molto compressa. Poi cosa volevo dire, tu Gianfranco invece con il tuo mini apparato a livello Marlboro come ascolti? Ma qua quasi tutti bene, non ci sono questi problemi, capito? Le radio sono tutte comprensibili, più o meno. E va, ecco, non c'è grande problema, perché come ricezione devo dire anche è sensibilissimo come apparecchio, anche se come hai detto tu è un doppio apparecchio. anzi, forse le Marlboro sono un po' più grosse come parte. Volevo chiedere una cosa, Oggia. Ma tu dove abiti, all'ultimo piano? Affermativo, Corso Vico, sì, vabbè, la mia antenna già si vede, è abbastanza visibile. Sì, allora vedi pure la mia, per forza, magari ti affacci e me la vedi su. Certo, te l'ho detto poco fa, io mi faccio la finestra e vedo i due elementi della tua antenna scabuzzare tra le mura di Sassari Vecchio, quindi cioè, come ti ho detto poc'anzi, siamo proprio a portata di sputo, come dice Marco. prima, te lo ricordi cosa c'era prima di questa? No, negativo, ma tu? C'era la storm, c'era. Io quando l'altro giorno sono andato in Corso Trinità a prendermi del tabacco lì al tabacchino e siccome mi piace guardare anche un po' in alto, mentre stavo passeggiando lì ho alzato gli occhi e ho beccato un'antenna. Ho detto, infatti mi sono chiesto chi sarà. ma io non abito lì. Cioè io abito dall'altra parte, hai capito? Io abito verso Corso Vico, proprio vicino a te. L'ho piazzata ieri poi quell'antenna. Tu ricordati una cosa, un di vero beneficio toscano, io c'ho ben chiede. Ehi, già ci siamo capiti, dai. Siamo molto, come sai, come diceva Striscia Notizia, vicini, dai. Ok, dai, non monopolizziamo, facciamo entrare a Marcolino. Avanti, Marco. Ehi, dai, tanto io fine serata sono cotto, capito? Mi viene la biocca, comincio a perdere i colpi, più del dovuto, naturalmente. I colpi li stiamo prendendo tutti, dai. No, in questi giorni, sai, il vento mi stava un po' preoccupando, ho visto, salivo ogni tanto qua a controllarmi l'antenino, scusate un attimo. Eia, è interrogativo per Gianfranco, come si è messo a QRM oggi? No, è basso, su questo è sempre basso. Devo dire. E che contenti? Una stazione deve essere araba, non è certo il nostro genere occidentale, sono da ogni tanto ci muovo perché era stasera che la, da questo pomeriggio che la osservo ed è sempre sta cosa. Se la sente Marco, già c'ha una biocco naturale. Se si mette ad ascoltare quella radio tutta settimana, vero Marco? Vabbè, certe strumentali sono anche carine. Alla la la, chi te l'ha fatto fa? Anzi, chi ce l'ha fatto fa? Quella è una in occhi sotto, che il marinese esce di ragazzoro. E va che c'è un gatto di radio in attesa. Vabbè che anche la musica sarda, dopo 49 anni, io ce ne scampi e liberi, i balli sardi, basta, bisogna allargarsi a altre culture. No, il fatto che questi stanno fregando, te ne accorgi per la pausa che fanno, capito? Adesso riprende. Sì. Ma praticamente così il muezzin. In pratica sì, perché quando fai, di nuovo quando fanno queste cose così lunghe perché si toccano la faccia, credono in ginocchio, pintina, una cosa del genere. Ma è sempre così, sì, anche quanto la pizza, vedi che mi metto di difficile perché sennò neanche a balla, lo vedo. Dovrebbe essere 9:20 quasi. Droga. Una volta la vera chissà mimura, vera, però più cosa. oggi un biglietto da Giubbuccio, un Mephisto, cazzo, ne esci da. Ah, ma è quando il casino ne esci da. Io redai una sorridere. E quelli sono pericolosi, mi, che usano l'RPG7, mi dal balcone. Un incompio, boom! E che ce ne possono quelli, perché solo io a Capodanno uso i candelotti. E chi si guarda nel più casino? Il cacchio, ma quelli sono pericolosi, mi. E che candelotti, caspita, vabbè, posso capire i Mephisto, i Magnum, quelli normali, quelli da cartoleria, ma certo sono bombe, sono veramente pericolosi, tipo i Cobra 6, gli Explode, roba di 30 grammi di polvere, proprio candelotti di dinamite. Infatti così è veramente, è criminale la cosa. E ho ritratto queste cose. Sono belli quelli, ma magari in zone aperte, in città muore il vecchio, magari muore il cane, il gatto, chi lo sa. Poi questi sindaci stanno vietando tutto, ma te le immagini che non si può sparare nemmeno a Capodanno, perché dice che i cani hanno paura, ma io ho i gatti in casa, beh, sono sopravvissuti a tutte le dinastie di gatti che abbiamo avuto, sono sopravvissuti a guerre civili a Capodanno. E vabbè. Va Gianfra, io sono sempre contro, vabbè, contro le proibizioni, sono molto, molto libertario. Vai Gianfra. Questo è accidentale, sì, vai. Sì, beh, oramai più tardi, io, passato, anche per l'epoca è passato, rispettato, forse, ma almeno per spagnolo studio, per quelli di esplodere. Quelli erano quelli che facevo io da piccolo, che erano dei Bengala, quindi erano tutti luminosi, c'era quella famosa pistola con le flobbers, no? C'era la specie di bicchierino, ci mettevi dentro il petardo che era un cilindretto e andava a una distanza formidabile, veramente. Faceva, un po' la più distanza erano a circa 50 metri, perché io avevo in mezzo il giardino comunale, e quindi andavano da casa mia verso il mercato, dove c'è il mercato civico. E praticamente, un giorno mi ricordo che c'era un terrazzino, meno male se sento subito, sono un po' alla casa. Aspetta, avevo visto in Germania vendono, mi pare, le lanciarazzi, cioè sono pistole a salve che scaricano la fiammata da davanti, pur essendo la canna parzialmente otturata da chiavi stelli, diaframmi, roba del genere, metti il tromboncino in punta, ci metti poi questi razzi, li chiamo razzi, che altri non sono che i Magnum, con un innesco ridotto che scoppia dopo un secondo circa, no, quelli che accendi a sfregamento, lì invece è breve, e ho visto un video di questi che assaltavano un negozio di non so che cosa, adesso è qualche piccola vendetta, ma roba da, una cosa impressionante, era roba di 10 o 15 ragazzi, tutti con questi aggeggi e tutti lanciando questi, sempre potenza limitata, cioè erano gli stesso botto di roba da cartoleria e in base ai grammi che contengono, quelli rossi, mi non so se è presente, li chiamano Mephisto Tomanna, Zeus, ma gli hanno tirato una quantità impressionante, sembra la guerra civile proprio. Anzi, in mezzo Europa mi pare siano liberalizzati, Francia, Germania, no, solo da noi vietano tutto, capito? Vietano il vietabile. Comunque questi divieti di spari a Capodanno non è la storia della sicurezza, è una scusa. Come una scusa quella degli animali che si spaventano, perché scusa, come si spaventano a Capodanno, si spaventano anche i cani e i gatti che stanno a Platamona quando fanno i fuochi dopo Ferragosto, capito? Va bene, non fa niente, ingoiamo anche questa. Vediamo se è rientrato Gianni. Eccomi, sono sempre presente. Ascolta, che radio stai usando, ma qui? President McKinley. Caspita, proprio stelle e strisce, come se non ci fosse un domani. No, vabbè. quello no, ma così, non avevo mai avuto un presidente, ho voluto provare, questo era piccolo, accattivante, naturalmente è sempre microfono originale, non, amplificati praticamente non ne uso, li ho definitivamente accantonati, ho già. E quindi niente da fare, uno ho già dato, l'altro sta per partire, ne rimangono due, vediamo vediamo un po' cosa farne. No, comunque audio molto bello, bello definito come il tuo solito, chiara, limpida, recovaro, e niente, ma a me le radio così mi fanno impazzire. Forse deformazione professionale. pensavo che stessi usando il Superstar, invece era un'altra cosa. Eia, guarda, l'unica cosa che mi rode del Superstar è il fatto di non poter levare il Roger Beep, perché alle volte può essere fastidioso, sai, fai passaggi veloci in cose, bip bip bip bip bip, infatti quello che è tuo, vedi, è un apparecchio più intelligente, hanno usato un selettore per levarlo e lì è fisso, invece mettono sempre il canale 9, l'NBNL che non uso mai, poi col finto Rosmetro che è al 3009, cioè, però non lo voglio modificare perché sennò l'omologazione comunque la perdo, sennò bastava usare un deviatore frontale tipo quello del canale 9 e mandare due filettini lì più o meno schermati, poi non lo so se influisce, ed elevare in mezzo il bip, ma poi magari ti vanno a dire che è toccato, che è modificato, che vabbè. Eia, mi sembra che stava bussando Antonio, ce lo siamo dimenticati, avanti Antonio. E scappa, lo posso togliere se voglio, fastidioso No, Antonio, parlavo per me, sai, parlando di notte, per esempio, adesso ti faccio un esempio terra a terra, aspetta. Così è tolto. Eia, no, per esempio, quando entrava la sorella di Pomponio, no? Magari la modulazione era bassina bassina, un po' parlando sottovoce di notte, e poi sentivi il bip, e di notte è tardi e un po' seccante. Va bene, Gianfranco, riprendi pure, vai. Ma perché tutto questo servizio di quaderno? Quaderno è alto? Ah, per la richiesta di prima? Sì. No, ti spiego, è metà serata, quindi 5:30-6, avevo già fatto tutte le manovre per attenuare, no? Quindi l'RFG in cui va lasciato a 5 e ho già i segnali massimi, però mi riduce drasticamente il QRM, no? Quindi adesso facciamola breve, se alle 6 di sera il QRM arrivava circa 2-3, adesso è tra 0 e 1. E quindi chiedevo, o è successo qualcosa qua col vento oppure è calato ulteriormente il QRM? No, io non lo sento, anche perché ho un briciolo di squelli. Comunque il segnale che si accende è solo uno qua, quando non parla nessuno. E qua non si accende nemmeno, oppure stazionare a posto, ma a meno che non sia partito qualche radiale in volo, in decollo. Lo trovano su Marte, mamma mia, vai Gianni. Eia, per Antonio, che radio stai usando, se ti viene bene dirlo, Antonio? Cosa? L'Intech 550 Power, lo conosci? Adesso non ce l'ho presente. No, comunque va molto meglio rispetto ai passaggi che hai fatto molto prima, dai. Ti ascolto molto meglio. A livello di watt della casa? Sì, tutto della casa, anche l'eco, tutto. Ho tutto della casa, anche il Roger Beef. Anche io, vabbè, come Marco, sono affezionato ai mic da palmo. Li trovo più intriganti, poi ognuno chiaramente ha la sua filosofia. giustamente. Vabbè, io il mio solito ZGM95 preamplificato con volume a metà del mic e volume a metà della radio. Non vi siete lamentati, quindi deduco che mi stiate ascoltando bene, sia Antonio che gli altri, giusto? prefetto. Sì, sì, va benissimo, va. Io ho quasi 10 anni questo apparecchio, ma mi trovo di un bene che non ti dico. Mi trovo benissimo, mi trovo. Non l'ho mai...